Ok, Frank il piumato contro questa generazione depravata. Adesso voi bulli potete pure venirmi a prendere a casa. E dico ciao a tutti, specialmente giusti, quelli che non parlano, non sparlano di gusti. E dimmi cosa c'hai là, dimmi cosa fumi, non fanno paura le minacce dei coglioni. E rubi motorini e sputi su bambini, magari veste Armani, tutto il resto già debili. E sai, ho visto gente che sa anche mentire. E sai, ho visto gente che sa raccontare stronzate sul mio conto. È tutto un peso lordo, mi incasso fino in fondo e su sto pezzo sfondo. E già la gente qui sa solo che sparlare, che poi su di me ha proprio poco da dire. Perciò la fantasia comincia ad avanzare, dicono cazzate e gliele lascio dire. E non scrivere sul muro che io sono un coglione, se lo faccio io qui lo sa una nazione. Se ti guardo in faccia mi ricordo di te, e quanti pugni in bocca ho preso sempre solo per te. Non ho paura di te, io me ne sbatto di te. Freghi un caca, che cazzo di te. Se ti guardo in faccia mi ricordo di te, e quanti pugni in bocca ho preso sempre solo per te. Non ho paura di te, io me ne sbatto di te. Freghi un caca, che cazzo di te. Conosco gente che pippa 12 anni, e ho visto gente spaccia droga per 10 anni. Conosco gente che minaccia ad ammazzarmi, e ancora c'è sta gente che c'ha voglia d'ascoltarmi. Conosco gente che voleva sposarmi, ma dico porco, c'hai 15 anni. E c'è sta gente che se porta dietro armi e pistano a sangue altri poveri bastardi. Conosco gente che mi piace raramente, conosco molta poca gente brava che non mente. Certa gente nella vita non c'è niente, costruisce ciò che è in base alla musica che sente. Squallidi falliti tra la gente ovunque guardo, bazzichi di merda che ti scrutano dall'alto. Questa è una storia che va avanti già da quando mi sentivo solo con sta gente a fianco al banco. Non dirmi, ma so qua sei tu che stai sbagliando. Questa gente marcia e lo capisco dallo sguardo. La verità è che da un bel po' che sono stanco, per le strade in mezzo a questa gente con rimpianto. Se ti guardo in faccia mi ricordo di te, e quanti pugni in bocca ho preso sempre solo per te. Non ho paura di te, io me ne sbatto di te. Freghi un caca, che cazzo di te. Se ti guardo in faccia mi ricordo di te, e quanti pugni in bocca ho preso sempre solo per te. Non ho paura di te, io me ne sbatto di te. Freghi un caca, che cazzo di te. Prego silenzio, Trenkin vuole spazio, e non mi frega un cazzo se poi di gambarazzo. Se non parliamo noi, qui l'Italia va lo sfascio. Ricordo ancora adesso chi mi ha sputato addosso. E no, non l'ho rimosso di chi mi urlava scemo. Tutti in coro scemo, ti senti figo vero? A urlare contro uno, ti senti più sicuro. Dimostri alla tipa e agli amici che stan duro. E adesso dimmi scemo, riprova a dirmi scemo. Riprova a dirmi in faccia, adesso io ti meno. Ridillo con quel tono, forza sto aspettando. Mi sale già il veleno e no, non sto tremando. Ma sai forse che c'è un grazie, te lo devo. Se non era per te il rap non lo facevo. E ascoltami, sarò la tua ossessione nello stereo. Bye bye bye, ora ti mostro il dito medio. Se ti guardo in faccia mi ricordo di te, e quanti pugni in bocca ho preso sempre solo per te. Non ho paura di te, io me ne sbatto di te. Freghi un caca, che cazzo di te. Se ti guardo in faccia mi ricordo di te, e quanti pugni in bocca ho preso sempre solo per te. Non ho paura di te, io me ne sbatto di te. Freghi un caca, che cazzo di te. E questo va contro tutti gli atti di bullismo, e chiedo a tutti coloro che si sentono un po' perdenti nella vita, ragazzi, io sono e sarò sempre la vostra voce, la voce, la vostra voce, la vostra voce, la vostra voce, la vostra voce, se, se, se. Woo!